Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Lo ha detto John Steinbeck, il premio Nobel americano autore di Furore. Il libro racconta il percorso dei contadini dell'Oklahoma verso ovest, verso la valle di San Joaquin in California. Per questa gente il sogno di una vita migliore rincorre la Route 66, la mitica strada di quasi 4.000 chilometri che è stata percorsa da milioni di viaggiatori, turisti e vagabondi. The Mother Route, come viene spesso chiamata, è un lembo d'asfalto che mostra il volto mitico degli Stati Uniti. È la sua immagine avventurosa e pura che si contrappone alle grandi metropoli, tutte grattacieli, traffico e cemento. È un mondo a parte, fatto di libertà e di sogni, di speranze e anche a volte di delusioni. Da 20 anni ormai surclassata dalle moderne e più rapide autostrade, è stata tolta dalle cartine e dagli atlanti. Eppure continua a conservare intatto il suo fascino. Motel con le insegne al neon che ospitano viandanti e traffici clandestini. Locali famosi in cui si fanno incontri surreali. Vecchie caffetterie con il rumore del campanello quando si apre la porta. La Route 66 non è solo una strada, è una filosofia e il grande schermo l'ha sempre resa protagonista. 1969, pieno periodo della contestazione e una gran voglia di libertà. Dennis Hopper gira e interpreta con Jack Nicholson e Peter Fonda il viaggio in moto più famoso del cinema, Easy Rider. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura. Nel 1991, nella pellicola diretta da Ridley Scott, sono due donne, amiche frustrate dalla provincia e dagli uomini, che mollano la quotidianità per intraprendere un viaggio che si trasformerà in fuga. Si chiamano Gina Davis e Susan Sarandon, vale a dire Thelma e Louise. Senti, Louise, non torniamo indietro. Che vuoi dire, Thelma? Non fermiamoci. Non capisco. Coraggio. Sei sicura? E la follia di Terry Gilliam, ex membro del gruppo comico inglese Monty Python, nel 1998, mette in scena l'avventura eccitante ed eccessiva di un giornalista e un avvocato con i volti di Johnny Depp e Benicio del Toro. È Paura e delirio a Las Vegas. Eravamo dalle parti di Barstow, ai confini del deserto, quando le droghe cominciarono a fare effetto. Ricordo che dissi qualcosa tipo... Sento la testa leggera. Potresti guidare tu. Ad un tratto ci fu un terrificante ruggito intorno a noi e il cielo si riempì di cose che sembravano enormi pipistrelli stridenti impicchiata sulla nostra macchina. E una voce urlava: Santi, oh Dio, cosa sono questi maledetti animali? Mitico viaggio americano, quel coast to coast che hanno sognato e continuano a sognare milioni di ragazzi in tutto il mondo, è sinonimo di avventura e libertà. Significa attingere dalle esperienze a piene mani, non prefiggersi una meta e nemmeno un obiettivo, se non il viaggio stesso. Una filosofia di vita che parte da un uomo, Jack Kerouac. Jack Kerouac. Jack Kerouac. Jack Kerouac, classe 1922, nasce nel Massachusetts, precisamente a Lowell, la stessa cittadina universitaria di cui è originaria anche l'attrice Bette Davis. La sua famiglia è franco-canadese di origine bretone e Jack, tra casa e scuola, ha la fortuna di imparare il francese fin da piccolo. Ho avuto una bellissima fanciullezza. Mio padre era un tipografo e io passavo le giornate e le nottate a correre per i campi e lungo le banchine del fiume. Ero felice, spensierato, leggero. Quando torna a casa da scuola, dà un bacio alla mamma e si siede a tavola aspettando che lei gli serva il pranzo. È uno dei giochi preferiti di Jack, una vera e propria sfida tra di loro. Lui chiude gli occhi tenendo le mani davanti perché non si fida troppo di se stesso e ha paura di barare, e prova a indovinare cosa mangerà. La mamma intanto lo confonde, spruzzando una goccia del suo profumo nell'aria, in modo che l'odore non lo aiuti a riconoscere il sapore. Qualche volta indovina, qualche volta no, ma è una delle immagini della sua infanzia che ricorderà per tutta la vita, come l'altra, quella del molo con le assi di legno e le piccole barche attraccate per andare a pesca sul fiume. È qui che Jack trascorre i suoi pomeriggi, ogni tanto con qualche amico, molto più spesso da solo, con il taccuino e una penna. Tenevo un diario, lo chiudevo a chiave e lo custodivo gelosamente. Ci scrivevo di tutto, corse di cavalli, campionati di baseball e di football americano. Niente che conoscessi davvero. Me lo inventavo. Mi immaginavo di essere un grande scrittore e mi inventavo storie pazzesche che poi leggevo solo io. Ma non immaginatevi un ragazzino triste, timido e in disparte. Al contrario, Jack è un ragazzo vivace, intraprendente e pieno di risorse. Per esempio, è un grande sportivo, tanto da vincere una borsa di studio per la Columbia University. È l'inizio degli anni 40 e New York è in crescita esponenziale. Ci sono già i grattacieli e la Grande Mela con il suo skyline ha sorpassato Londra nella classifica delle città più popolose del mondo. New York è viva, vibrante e sembra non accorgersi della guerra in corso che sì la coinvolge, ma in un'Europa ancora distante. Cartoline delle pin-up in bianco e nero, sigarette, musica jazz, cinema, di questo si può godere. Sono gli anni d'oro di Hollywood e quella che è considerata l'età del cinema classico sforna capolavori uno dietro l'altro. Le commedie di Frank Capra, i drammi sociali di John Ford, Quarto potere di Orson Welles, i gialli di Hitchcock, Walt Disney. Tutto parte da questi anni. Gli stimoli arrivano da tutte le parti e studiare sembra quasi una perdita di tempo di fronte alle possibilità che offre il mondo. La pensa così anche Jack, troppo scapestrato, curioso, anarchico per stare seduto a un tavolo ad ascoltare. Ha voglia di assaporare la vita, ha un desiderio incontenibile di fare esperienze, fino a scontrarsi con le realtà più dure. Ho fatto di tutto, volevo misurarmi con le cose concrete, con il lavoro vero. Non volevo rimanere nella mia campana di vetro, all'università, con tutta la gente uguale a me. Jack si mantiene lavorando come muratore e poi come apprendista metallurgico. Racconta in giro che vuole fare qualcosa per cui la sera farsi la doccia sia un obbligo, non una possibilità. E nel 1942, a soli 20 anni, prende una decisione drastica, quasi per dimostrare a se stesso che ce la può fare. Si arruola in marina. Un'esperienza che dura poco, perché viene quasi subito congedato per problemi psicologici e per via della sua totale insofferenza alle regole, che il responso è niente meno che la schizofrenia. In lui prevale l'amore per il mare. È potente fin da quando sui gradini di casa viene folgorato dalla ballata del vecchio marinaio, manifesto del romanticismo inglese scritto da Coleridge. Altro scrittore affascinato dal blu degli abissi è anche Joseph Conrad, capitano della Marina Britannica per 20 anni e grande cantore di storie di mare. Anche Jack Kerouac si arruola nella Marina e si imbarca come sguattero su una nave mercantile con destinazione Groenlandia. Una sfida, una prova di resistenza, un mettersi alla prova, oltre che con il mare, con la propria solitudine. E l'amore, l'amore, l'amore, che infrangibile anello è stato il tuo amore. L'attimo nella nebbia che più credibilmente rassomiglia al sole, in mezzo a scogli e stelle, guizzi di delfini da non considerare, perché il vecchio ora sa che è vero solo il mare. Troppa solitudine in mezzo al mare fa optare Jack per il rientro. come al solito senza mezze misure, passa dalla desolata Groenlandia alla sfavillante New York e in un attimo torna a essere protagonista delle folli notti cittadine. Il cuore pulsante della vita newyorkese è il Greenwich Village, frequentato da artisti, ribelli e bohemien. È in questo quartiere che per tradizione nascono movimenti e idee, a partire dalle avanguardie di inizio Novecento fino ai giorni nostri. Nei tavolini all'aperto e davanti alle polverose e fornitissime librerie si ritrovano poeti, cantautori, scrittori, studenti e musicisti. Perché il Greenwich Village è un angolo di paradiso per tutti coloro che vogliono fuggire dal conformismo della società. C'era gente che dormiva per strada, gente vestita di mille colori, anche gente che aveva semplicemente voglia di camminare a piedi nudi, oppure andava in giro totalmente nuda. Eppure nessuno gli diceva niente, perché al Greenwich c'era totale libertà d'espressione. Non è un caso se proprio qui sorgono allora e tuttora i più noti nightclub e bar gay, che erano ancora soggetti a frequenti retate da parte della polizia, che non si limitava a registrare i nomi dei presenti per farli pubblicare sulle pagine dei quotidiani, ma cercava di caricare più avventori possibile sui cellulari per tentarne l'arresto. Un esempio sono i cosiddetti moti di Stonewall del 27 giugno 1969, considerati da un punto di vista simbolico il momento della nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. La polizia intorno all'una e mezza di notte irrompe nello Stonewall Inn, un famoso bar in Christopher Street, dando il via a una serie di scontri violenti tra omosessuali e forze dell'ordine. Ma Jack Kerouac non si può immaginare tutto questo mentre è seduto tra gli scaffali di una libreria intento a sfogliare l'Ulisse di James Joyce. Non ha abbastanza soldi per comprarlo e lo legge giorno per giorno. Vuole fare lo scrittore, mettere sulla carta i suoi sogni. Ed è tutto racchiuso in quel flusso di coscienza che lo cattura pagina dopo pagina. Joyce è la vera rivoluzione, non solo di stile e di linguaggio, è la nuova filosofia di libertà. Se si è liberi con il pensiero, si può anche essere liberi con il corpo. E pensare ed agire senza vincoli e costrizioni era quello che io cercavo di fare da sempre. Di questo e di mille altre cose, Jack parla con i suoi amici. Lucien Carr, per esempio, che una mattina, in un raptus di gelosia, uccide il suo amante, mentre Kerouac viene arrestato come testimone. È la rottura con i suoi genitori perché suo padre si rifiuta di pagare la cauzione. Si offre di pagarla invece il padre di una ragazza, Edith, in cambio della promessa che sposerà sua figlia. Kerouac accetta e naturalmente il matrimonio dura pochissimo. Ma soprattutto Jack frequenta due geniali scrittori e poeti, William Burroughs e Allen Ginsberg, l'autore di Urlo, provocazione pura, allucinatorio, censurato. Perfetto. Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia, morire di fame isteriche, nude, trascinandosi per le strade negre all'alba in cerca di una dose rabbiosa, hippie dalla testa d'angelo, bruciare per la vita. Kerouac è vagabondo e randagio. Non si sente a casa da nessuna parte, né a New York né a San Francisco. Le sue radici sono i suoi amici, Burroughs, Ferlinghetti, con cui fa poesia jazz, e Ginsberg, che lo segue nelle vie più torbide. È con lui che continua a conoscere artisti o aspiranti tali che lo iniziano alla droga, benzedrina in primo luogo. È solo uno dei tanti modi per sfuggire alla realtà, al conformismo, agli obblighi sociali. Kerouac ha un tormento interiore che lo porta a bere moltissimo. E più qualcuno cerca di fermarlo, più lui beve. Solo Fernanda Pivano, la sua carissima amica, sembra aver trovato un modo per proteggerlo senza che lui se ne accorga. Io ero la sua amica perché gli davo il whisky. Io avevo dei bicchieri gialli così, non si vedeva cosa c'era dentro. Ma però sul bordo io passavo un dito intriso di whisky. Lui sentiva l'odore e beveva. Inquietudine, voglia di scappare, sofferenza. Kerouac non riesce a darsi pace. È un ribelle che fa del libero arbitrio la sua bandiera. Uno scrittore che cerca di dare sfogo a un dolore che neanche la Pivano riesce a capire fino in fondo. Gli dicevo, ma perché sei così disperato? Che cosa vuoi? Che cosa cerchi? Che cosa vorresti? Voglio che Dio mi mostri il suo volto, mi rispondeva. Notate passate su una vecchia poltrona in pelle e una bottiglia di birra in mano, mentre tutte le bottiglie vuote già consumate lo circondano sul tappeto distrutto dai buchi delle sigarette. giornate per strada con gli amici, un libro di cui parlare. La gioventù, il futuro, tutta la vita davanti, ma un'infinita tristezza nel cuore. Eppure, come racconta il critico letterario Stas Gavronsky, sta per succedere qualcosa di grande. Kerouac viene considerato il leader dell'inquietudine che in quegli anni attraversa la gioventù degli Stati Uniti. È l'inizio della Beat Generation. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo negli anni 40 e c'è un giovane aspirante scrittore, Jack Kerouac, che vagabonda tra varie città americane. Con i suoi amici poeti William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Allen Ginsberg, condivide una filosofia di vita, uno spirito di ribellione non tanto politico, ma individuale, e la voglia di essere davvero libero. In Italia a sostenerli c'è Fernanda Pivano. Era la negazione di tutto l'ordine. Dio li benedica. Il tormento interiore di Jack si traduce nella continua ricerca di qualcosa che neanche lui sa ben definire, qualcosa che lo porti a cambiare, che lo faccia sentire un uomo privo delle costrizioni sociali. E nel 1946, mentre sta passeggiando per il Greenwich Village, incontra in un caffè l'uomo del suo destino, l'incarnazione di tutto il suo male e contemporaneamente l'incarnazione di tutto ciò che vuole essere. È un ragazzo bello, dai tratti decisi, bicchiere nella mano sinistra e sigaretta nella mano destra. Il suo nome è Neal Cassady. Neal Cassady. La storia di On the Road comincia a New York nel 1946, quando Jack Kerouac, studente alla Columbia University, incontra Neal Cassady, il personaggio chiave della sua vita e della sua scrittura. Neal Cassady nasce nel 1926 a Salt Lake City, Utah, profonda provincia americana, dove la vita scorre lenta e una grande comunità mormone non vuole perdere le sue tradizioni. Tutto nella sua vita è un'avventura, a partire dal primo pianto fuori dal grembo materno. Sono nato durante un viaggio dei miei genitori. Papà non ha fatto in tempo a portare la mamma in ospedale e sono nato per la strada. Il mio era un destino segnato. Presto resta orfano e si trasferisce a Denver con suo padre, che nella vita, a parte il gioco, ha un solo altro hobby: bere. L'alcol per sfuggire alla noia, alcol per sfuggire a se stessi. Un problema di tanti grandi tormentati della storia che hanno cercato di dimenticare la triste e dura realtà, affogando i dispiaceri in un bicchiere. Neal è un teppista, vive di espedienti. E siccome a casa non c'è mai nessuno che lo aspetta, passa fuori per la strada interi giorni e intere notti. Scippi, rapine, furti d'auto. È un vero e proprio delinquentello senza arte né parte che cerca il brivido della vita al di fuori della legalità. Finisce in prigione, si mescola con il mondo della criminalità, tutti lo temono e nessuno lo conosce davvero. Nessuno sa che sotto la scorza di duro si nasconde un poeta. E così, senza amici, senza affetto, senza neanche prendersi il disturbo di buttare due cose in una borsa, prende un pullman lentissimo e rumoroso che attraversa gli Stati Uniti in direzione New York. In testa ha solo un'idea. L'arte è buona quando muove dalla necessità. Questo tipo di origine ne garantisce il valore e nient'altro. Neal Cassady arriva a New York con poche certezze e ancora meno speranze. È un disilluso, un uomo che non ha mai avuto niente dalla vita e che trova piacere solo nel brivido della strada. Allen Ginsberg, che viene folgorato dalla sua personalità in un martedì qualsiasi, dopo avergli chiesto una sigaretta, ne parla così. Non c'era comunismo che tenesse. Neil era quello che tutti noi cercavamo di essere. Non aveva niente e non voleva avere niente. Gli interessava soltanto la poesia. Non aveva bisogno di altro. Era l'icona della libertà. In poco tempo Neil inizia a frequentare Ginsberg, Corso, Ferlinghetti e soprattutto Kerouac. È con lui che si incontra ogni volta che può e a lui che fa leggere i suoi scritti. Kerouac lo sprona a continuare, lo indirizza, ma senza guastarne la spontaneità. Lo sostiene e gli fa capire di stimarlo, una sensazione che Neil, abituato a essere considerato semplicemente un delinquente, non ha mai provato prima. Era davvero interessato a me. Mi chiedeva come stavo, cosa provavo. Non avevo mai avuto un amico vero. E invece adesso avevo Jack, che per me avrebbe fatto qualsiasi cosa. Per Kerouac, intanto, Cassady diventa il vero simbolo dell'emarginazione, di quella inquietudine che sente nel profondo e che vuole sfidare fino alla fine. Rappresenta l'ultima forma di cowboy urbano che resiste alle convenzioni sociali e agli obblighi imposti dallo stile di vita borghese. E così, quando Neil ritorna a Denver, Jack inizia con lui un fitto carteggio che lo scrittore Emanuele Bevilacqua racconta così. Neil risponde con delle lettere irruenti, piene di energia, senza punti, senza virgole, quasi come fosse una lunghissima jam session musicale. Da queste lettere Jack capisce, intuisce che c'è un altro modo di scrivere. Un modo di scrivere molto simile a come Neil Cassady porta la macchina. E la svolta di Kerouac. Decide di fare il pieno di benzina, ingranare la prima e mollare New York alla volta di Denver. Andrà a prendere Neil, lo caricherà al suo fianco e faranno un viaggio senza meta nel cuore dell'America. Per lui non si tratta semplicemente di macinare chilometri, si tratta di macinare esperienze, di dare un'intensità tutta nuova alla propria esistenza e forse per la prima volta darle un senso, come scrive lui stesso. Neil era figlio del West e del Sole. Qualcuno cercava di avvertirmi che mi avrebbe messo nei guai, ma io sentivo una nuova voce che mi chiamava e vedevo un nuovo orizzonte e ci credevo, giovane com'ero, e che importanza poteva avere qualche piccolo guaio. Ero un giovane scrittore e volevo andare lontano. Neil, ricorda Bevilacqua, non è solo un amico per Jack, è molto di più. È un giovane che è cresciuto con esperienze forti, che sembra non avere paura di niente e che sente pulsare dentro di sé la febbre della scoperta. Senza troppi pensieri, senza congetture e senza schemi mentali, la sola cosa che gli interessa è vivere. Neil Cassady è lo sguardo che serve a Jack per scoprire il mondo. Si incontrano e da quel momento saranno inseparabili, pronti a scappare via in macchina. Neil e Jack girano l'America in macchina e quando hanno voglia, quando trovano una donna, un amico, qualcosa che li cattura, si fermano per un po'. Sopravvivono con espedienti, rubando sigarette e cibo nei piccoli chioschi dei distributori di benzina deserti. Il continente è immenso e le esperienze da fare quotidianamente hanno mille colori. Brivido del sesso, sperimentazione di droghe, accese discussioni con gli amici sotto l'effetto dell'alcol e le note del jazz. Tutto ha sapore perché ha il fascino dell'inaspettato e il sapore dell'imprevisto. E Jack, per cementare tutto nella sua memoria, si appunta sensazioni e fatti su qualsiasi cosa gli passa tra le mani, come ricorda la Pivano. Loro non parlavano di libertà, loro parlavano di liberalizzazione. È un mondo, quello dello zaino in spalla e l'avventura dietro l'angolo, che nell'Italia del dopoguerra si può solo immaginare. I giovani sognano, come tutti i giovani del mondo, ma non hanno le ali ai piedi come Neil e Jack. Tanto che anche le generazioni successive, come quella di cui fa parte il cantautore modenese Francesco Guccini, ne subiscono profondamente il mito. Era affascinante sentir dire che siamo partiti sulla vecchia Oldsmobile del 46, del Bubble, di Dean, per dirne una. Non è la stessa cosa dire siamo partiti sulla vecchia 1100 del Bubble di Cecco e abbiamo fatto Formigine e Paullo in una sola tirata. Prima tappa. Neil convince Jack a portare a Rocky Mount, North Carolina, i mobili della madre che vuole passare il Natale nella nuova casa della figlia Nina. Tempo 36 ore andata e ritorno. Seconda tappa. Nessuna tabella di marcia e il solo scopo, prima o poi, è andare a far visita a William Burroughs, che coltiva marijuana con la moglie in Louisiana. Stanno insieme, fumano, chiacchierano. Gli chiedono un prestito di $25 per andare a San Francisco. Ma Burroughs rifiuta. Nonostante la condivisione totale nella visione del mondo, è strano come né lui né Ginsberg capiscano andirivieni in macchina di Kerouac senza un fine preciso. Erano i miei amici, eppure neanche loro capivano me e Neil. Non capivano la gioia fine a se stessa di guidare a velocità pazzesche. La felicità di correre proprio senza scopo, di essere liberi, di lasciarsi alle spalle qualsiasi dovere, anche minimo, per fare sciocchezze e confusione, per abbandonarsi al puro movimento. Può sembrare solo un viaggio di due amici, bellissimo e indimenticabile, ma comunque è un viaggio. Invece è l'inizio della leggenda. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo sulla strada e due ragazzi stanno macinando chilometri sull'asfalto dell'America. Si chiamano Jack Kerouac e Neil Cassady e hanno iniziato un viaggio all'avventura senza scopo e senza meta, per il puro piacere del movimento. Jack si sta appuntando tutto, ricordi, sensazioni, e immagina una volta a casa di farne un libro. Sa già il titolo, On the Road, sulla strada. I protagonisti, come ricorda Gavronsky, sono proprio loro. Neil Cassady diventa Dean, il protagonista della storia, raccontata attraverso la voce di Sal, che è Kerouac stesso. Dean è pura energia, guida come Dostoevsky, dirà Jack Kerouac, fuma, cerca donne, cerca cibo, cerca avventure, esperienze. Kerouac scrive velocissimo. Era lì, ha provato tutto personalmente, giorno dopo giorno, e quasi non deve rileggere gli appunti per ricordarsi l'intensità di ogni singolo momento mentre lo mette tutto su carta. Per metterci ancor meno tempo, si mette alla macchina per scrivere e sostituisce i fogli singoli con un grande rotolo di carta che scorre più in fretta. Quando viene invitato al famoso Steve Allen Show, racconta che per stendere il testo ci ha messo solo 3 settimane e per farlo pubblicare 7 anni. How long did it take you to write On the Road? 3 weeks. How many? 3 weeks. 3 weeks? That's amazing. How long were you on the road itself? 7 years. 7 years. Perché sulla strada per 7 anni questi stronti ignoranti analfabeti degli editori non gliel'hanno pubblicato? 7 anni per non capire che era il libro della generazione. È la mattina del 5 settembre 1957. È l'alba. Jack Kerouac è appena arrivato da Orlando, Florida. È andato a salutare la madre al ritorno da una tappa in Messico. È insieme a Joyce Johnson, che viene soprannominata Glassman, una giovane scrittrice che lo ospita e ama da gennaio. Insieme vanno a un chiosco di giornali all'ingresso della metropolitana all'angolo tra la 66esima strada e Broadway e comprano il New York Times. Secondo l'avvertimento della casa editrice Viking, dovrebbe contenere una recensione di Sulla strada, uscito il giorno prima, dopo 6 anni di attesa. La recensione c'è e Jack ha paura di scoprire cosa dice. Dopo l'attesa, lo strazio, il rifugiarsi nell'alcol per la delusione degli innumerevoli rifiuti, adesso la sua vita può ripartire da lì, da quell'articolo. Jack si fa coraggio e legge ad alta voce. Sulla strada è l'espressione migliore, la più chiara e la più importante realizzata finora dalla generazione che io stesso ho chiamato Beat e della quale Neil Cassady è la principale incarnazione. La Beat Generation rappresenta tutto quel grande movimento artistico, poetico e letterario che predica la beatitudine. Uno spiritualismo che per certi versi è zen, ma per altri è un misticismo a cui si arriva attraverso le droghe più svariate, l'alcol, la promiscuità sessuale fatta di incontri frenetici. Ma il Beat è anche qualcuno di battuto, sconfitto, fallito. qualcuno che vive ai margini della società borghese e pretenziosa ed è eternamente borderline. Il beat se ne infischia delle regole, degli schemi prestabiliti, rincorre la libertà. E quindi il viaggio istintivo, senza meta, semplicemente sulla strada. Come dicono i protagonisti del libro, non conta dove si va, l'importante è andare, come ricorda Guccini. Mi affascinò moltissimo, una frase soprattutto, la ricordo sempre, dice: dobbiamo andare, dove, dice quell'altro, non importa dove, basta andare. On the Road diventa il manifesto della cultura beat perché ne incarna perfettamente l'essenza. In Italia tradurlo, promuoverlo e scriverne un'introduzione è Fernanda Pivano. Il beat è un battito jazz che modula la vita sul momento senza pensare al domani, come in un motivo improvvisato da Charlie Parker in un club buio e pieno di fumo. Il beat è consapevolezza di sé e dell'appartenenza a un gruppo. E Jack Kerouac e Neil Cassidy danno voce a questo mito. Il loro incontro ha davvero cambiato il destino l'uno all'altro. Kerouac senza Cassidy non avrebbe mai intrapreso il viaggio che ha ispirato On the Road, il libro mito per generazioni di giovani nel mondo, e nemmeno l'avrebbe scritto con quelle parole così perfette, che, come ricorda Gavronsky, sembrano uscite proprio dalla bocca di Neil. Anche la lingua rivoluzionaria di On the Road nasce dall'amicizia tra Neil Cassidy e Jack Kerouac. Sono le lettere di Neil a ispirare lo stile di Jack. Cassidy, dal canto suo, senza Kerouac, sarebbe rimasto un comune teppista che alternava momenti fuori e dentro al riformatorio. E invece è diventato un grande scrittore che ha raccontato tutto quell'universo nell'autobiografia I Vagabondi. Ma soprattutto il loro percorso insieme ha dato vita al cuore pulsante della Beat Generation, che ha cambiato il mondo più di mille rivoluzioni, come non mancava mai di sottolineare Fernanda Pivano. Allora, tutte le volte che fai l'amore con un ragazzo che non è tuo marito, anche se hai un marito che tanto non conta, insomma, tu devi ringraziare Kerouac e rivolgere un pensiero a Kerouac. Neil Cassidy muore nel 1968. Sta camminando senza meta, ubriaco, infreddolito, lungo i binari di una linea ferroviaria nel Messico, finché non si addormenta, stanco, solo, per sempre. Jack Kerouac, la personificazione della tragedia, muore nel 1969 e in una stanza buia su una sedia a dondolo, circondato di bottiglie vuote. Anche lui ubriaco, stanco e solo. Fuori sono gli anni della contestazione giovanile, gli anni hippie, dei figli dei fiori. Ma questa è tutta un'altra storia. Perché le guerre sono sempre cominciate e finite sotto la voce dei poeti. Perché i poeti non parlano con la testa, parlano con la pancia. Non chiamiamolo cuore, se no mi prendete in giro. Ma parlano di passione, non parlano mai di ragionamento. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.